Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sapevamo e sappiamo che il sistema avrebbe provato e proverà in tutti i modi a cancellare le leggi che abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo. Ma quando è così, c'è una sola risposta, e quella risposta è il popolo italiano. Quella risposta è il popolo italiano, dice Luigi Di Maio, a proposito del fatto che dice tutti attaccano il Movimento 5 Stelle, vogliono abrogare le nostre leggi, e quindi chiama il popolo in piazza per il prossimo 15 febbraio. Questo da, diciamo, non più capo politico del Movimento 5 Stelle, non ha fatto dichiarazioni, mi sembra, in merito oggi il capo politico reggente Vito Crimi. Ce ne occuperemo per capire anche a che punto è il governo, diciamo, preso tra la questione della prescrizione, dove non si trova mediazione tra le quattro forze politiche che formano il governo, così come anche sui vitalizi e così come anche su altri temi. Poi ovviamente ci occuperemo di coronavirus, gli ultimi sviluppi con l'annuncio da parte di un team di scienziati cinesi che dicono sono stati trovati due farmaci che sono efficaci contro il coronavirus, smentiti però da diversi esperti italiani, ne avremo uno anche qua stasera a Effetto Notte, e anche dalla OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice no, al momento non esistono farmaci efficaci contro il coronavirus. E rimane il punto di domanda, in particolare per quanto riguarda l'Africa: cosa succederebbe se si dovesse cominciare a spargere l'epidemia nel grande continente. Poi ci collegheremo con Sanremo, seconda serata, ieri serata da record, vedo già sul palco Fiorello travestito da Maria De Filippi, che sostiene il suo amico Amadeus, come ha fatto anche ieri in giacca di bronzo. Ma di questo ci occuperemo dopo. Voi, per la vostra interazione, sapete che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp per i vostri commenti, riflessioni, eccetera, che è 349-238-6666. Coronavirus, l'ultimo bilancio di 500 vittime, la Cina annuncia una cura ma gli esperti frenano, stazionari due pazienti ricoverati allo Spallanzani, l'OMS sottolinea nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi. Politica italiana su prescrizione vitalizi, dibattito aperto nella maggioranza, Di Maio attacca e rilancia, tutti in piazza il 15 febbraio. Stati Uniti, Trump spacca il congresso americano, Nancy Pelosi straccia il suo discorso, il presidente verso la soluzione in Senato. Turchia, Istanbul, un aereo in atterraggio esce di pista e si spezza, 120 feriti gravi, due piloti. Ponte Morandi, bufera su Oliviero Toscani per una sua frase, i familiari delle vittime lo attaccano, lui dice sono distrutto, è una follia che non mi interessi, la tragedia del crollo. Clima, il mese che si è appena concluso è stato il gennaio più caldo di sempre. Sanremo, dopo gli ascolti record di ieri, seconda puntata del festival. Calcio in campo per il recupero di Serie A maschile, Lazio-Verona, i biancocelesti cercano i tre punti per il secondo posto. Partiamo quindi dal tema dei temi, sempre centrale a livello internazionale, quello del coronavirus. Sono al momento 500 le vittime. E oggi un team di ricercatori guidato da Li Langjuan, tra i massimi scienziati cinesi schierati nella lotta al nuovo coronavirus, ha annunciato un'importante scoperta. Si tratta dei risultati positivi emersi da due farmaci, l'Abidol e il Duranavir, che possono effettivamente inibire il virus nelle cellule in vitro. Così ha detto Li, professoressa alla Zhejiang University. La scienziata ha spostato il suo team nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, puntando a rafforzare il trattamento dei nuovi pazienti. Gli esperti però frenano e anche l'OMS chiarisce, non ci sono terapie efficaci conosciute, aggiungendo che nelle ultime 24 ore abbiamo avuto il numero più alto di casi in un singolo giorno dall'inizio dell'epidemia. Intanto i medici di Wuhan Children Hospital hanno riferito che le donne in gravidanza positive al coronavirus potrebbero trasmetterlo al loro bambino durante la gestazione. E ora il punto sulla situazione in Italia. Abbiamo avviato il controllo in tutti gli aeroporti con gli strumenti a disposizione. Su Fiumicino già da ieri sono operativi i termoscanner. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fa il punto sulle misure adottate finora per fronteggiare l'emergenza coronavirus. 24.000 le persone verificate con il termoscanner a Fiumicino, 628 persone a supporto nei piani di sorveglianza degli aeroporti, mentre da domenica sera verranno intensificati i controlli nei porti. Borrelli annuncia poi di aver firmato un'ordinanza per scongiurare la perdita dell'anno scolastico rischio a 114 ragazzi occupati in scambi culturali con la Cina, tra cui il 17enne rimasto lì per via della febbre. I 114 ragazzi stanno rientrando, rientreranno domani e dopodomani attraverso voli indiretti. E intanto restano stazionarie le condizioni dei due coniugi cinesi ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Spallanzani di Roma. La prognosi resta riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita. Verrà dimessa poi in serata la cameriera ricoverata precauzionalmente al Policlinico di Verona per accertamenti. La donna lavora nell'albergo dove aveva alloggiato la coppia cinese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E gli sviluppi dell'epidemia da coronavirus, torneremo a parlare tra poco con un esperto del Sacco di Milano, ospedale Sacco di Milano. Siamo alla politica italiana intanto, con la maggioranza sempre alle prese con prescrizione e vitalizi. Nonostante gli appelli di Conte, nella maggioranza resta alta la tensione sul nodo prescrizione. Il ministro della giustizia Bonafede dice di non essere a conoscenza di trattative su un possibile rinvio della legge voluta dal Movimento 5 Stelle, annuncia che entro 10 giorni presenterà la riforma sul taglio dei tempi del processo penale e torna a polemizzare con Renzi. Io non posso tutti i giorni impiegare il mio tempo per rispondere a chi è nella maggioranza e si comporta come se fosse opposizione. A volte ho il dubbio che i testi glieli scriva Salvini o Berlusconi. Vogliono cancellare le nostre leggi, attacca anche Di Maio, che chiama a raccolta il popolo dei 5 Stelle in vista della manifestazione del 15 febbraio contro il possibile ripristino dei vitalizi. Nel frattempo è anche il PD a spingere per un rinvio della riforma della prescrizione. Se ci fosse, avremmo più tempo per lavorare a quella del processo penale, sottolinea il vice segretario Demmo Orlando. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Temi questi sui quali naturalmente ci sarà spazio tra poco per tornarci su. E per l'ex Silva invece timidi segnali di una ripresa del dialogo tra azienda e sindacati. ArcelorMittal sembra intenzionata a voler chiudere un accordo con il governo sullo stabilimento ex Ilva di Taranto. Lo riferiscono i sindacati dopo un incontro con l'amministratore delegato del gruppo franco-indiano Lucia Morselli, organizzato per fare il punto sull'infortunio nel reparto carpenteria. Morselli, dice il segretario FIOM di Taranto Francesco Brigati, ha mostrato ottimismo. L'amministratore delegato Morselli ha utilizzato toni molto rassicuranti, c'era molto ottimismo nel rappresentare appunto quella che era la volontà di ArcelorMittal di voler rimanere, di voler chiudere un accordo con il Vinaes. ArcelorMittal e governo sono al lavoro per cercare un punto d'incontro in vista dell'udienza del 7 febbraio del Tribunale di Milano. I giudici esamineranno il ricorso dei commissari straordinari dell'ex Ilva di Taranto contro l'addio allo stabilimento annunciato da ArcelorMittal. Per il Ministero dello Sviluppo Economico, nella replica al ricorso dei commissari, i legali del gruppo franco-indiano hanno fatto 3 passi indietro rispetto alle loro posizioni iniziali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora Bruxelles, dove si cerca di cambiare il patto di stabilità. Bruxelles lancia la revisione del patto di stabilità a una decade di distanza dalla crisi finanziaria che ha portato all'irrigidimento delle regole comunitarie in materia di conti pubblici. La Commissione europea, su iniziativa dei commissari Gentiloni e Dombrovskis, ha lanciato una proposta di riesame delle normative che regolano il patto, divenuto negli anni troppo complesso e poco trasparente. Se è vero, come sostiene Bruxelles, che le regole europee in materia di bilancio hanno in parte aiutato la correzione degli squilibri e aumentato la difesa contro gli shock finanziari, allo stesso tempo il debito resta elevato in alcuni paesi e spesso l'impostazione di politica di bilancio è stata prociclica. Inoltre i conti pubblici non risultano abbastanza orientati alla crescita. E questo è il vero obiettivo della revisione, puntare all'espansione economica piuttosto che alla mera stabilità dei conti. Bruxelles per ora ha avviato semplicemente un dibattito che durerà mesi e sarà allargato a tutta la società europea, tenendo conto delle profonde spaccature esistenti sulla questione tra i paesi rigoristi del nord e i paesi del sud del continente, quali il nostro. Obiettivo: allargare le maglie della flessibilità per investimenti verdi e semplificare i parametri di riferimento concentrandosi sui limiti alla spesa pubblica. La consultazione si chiuderà a fine anno quando Bruxelles varerà una proposta più definita. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di violenza contro le donne e mutilazioni. Domani è la giornata internazionale. Sono circa 250 milioni le donne che nel mondo sono portatrici di mutilazioni genitali femminili. 250 milioni. 3 milioni le bimbe e le ragazze a rischio ogni anno, tra i 4 e i 14 anni, ma talvolta anche più piccole. Dati che fanno della pratica, molto pericolosa per la salute e per la psiche, è un problema su cui sollevare l'attenzione, che non riguarda solo l'Africa ma anche l'Indonesia, il Medio Oriente, l'Estremo Oriente, l'America Latina e in generale comunità di immigrati da varie aree del mondo in Occidente. Solo in Italia le donne presenti sul territorio che sono state sottoposte durante l'infanzia a una forma di mutilazione genitale, secondo stime, sono tra 61.000 e 81.000, ma potrebbero essere molte di più, perché alcune magari non hanno avuto bisogno di rivolgersi al servizio o il coraggio di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale e quindi non sono state, per così dire, intercettate. A fare il punto una conferenza organizzata dagli istituti per la ricerca sanitaria Regina Elena e San Gallicano in occasione della giornata internazionale contro questa pratica che si celebra domani. Turchia, sono almeno 120 feriti trasportati in ospedale tra le 177 persone a bordo dell'aereo giunto da Smirne, che si è spezzato dopo essere uscito di pista all'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul. Lo ha reso noto il prefetto locale, aggiornando il precedente bilancio di 52 persone ferite e precisando che quelle in gravi condizioni sono uno o due. Passiamo agli Stati Uniti. Nella giornata che porterà il Senato a votare no all'impeachment a Trump, vista la maggioranza repubblicana, sul fronte democratico si contano ancora i voti per le primarie nello stato dell'Iowa. Il pasticciaccio dei caucus dell'Iowa rimane, ma i risultati, anche se provvisori, non mentono su chi parte oggi in vantaggio nell'ancora lunga corsa alla nomination democratica per le presidenziali del 2020. In testa sono il sorprendente giovane sindaco moderato Pete Buttigieg e il veterano dell'ala progressista Bernie Sanders. Con oltre il 70% dei consensi scrutinati, Buttigieg ha un leggero vantaggio di delegati locali, 419 a 394. L'emergere di Buttigieg e la conferma di Sanders non sciolgono affatto le incognite su chi sarà il futuro candidato, al quale occorrerà giudicarsi oltre 1.990 delegati nazionali. In gara, a cominciare dall'appuntamento con il New Hampshire martedì prossimo, restano almeno un seppur sconfitto Joe Biden, l'alternativa di sinistra Sanders e Elizabeth Warren arrivata terza, e candidati minori. Soprattutto resta Michael Bloomberg, che non partecipa a questi primi appuntamenti ma ha appena autorizzato il raddoppio della sua già record campagna pubblicitaria. Certo è che gli intoppi nel calcolo dei voti dell'Iowa ha dato il destro al presidente Donald Trump per criticare l'incapacità degli avversari, anche soltanto di gestire un'elezione locale. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E a proposito dell'impeachment che si voterà domani al Senato, poco fa il senatore repubblicano Mitt Romney rompe con la linea del Partito Repubblicano, annuncia che oggi, praticamente oggi appunto per quanto riguarda gli Stati Uniti, voterà per la condanna di Donald Trump nel processo di impeachment per l'Ucraina Gate. Il presidente, ha detto Romney in una conferenza stampa, è colpevole di uno sconcertante abuso di fiducia pubblica. E adesso di nuovo in Italia, bufera sul fotografo Oliviero Toscani per una frase sul ponte Morandi, ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamolo, ha detto su una trasmissione di Radio 1, avrebbe così detto, scatenando indignazione e richieste di scuse. I familiari delle vittime parlano di esternazioni inopportune e confuse. La replica di Toscani arriva mentre la polemica ormai impazza in un diluvio di reazioni all'insegna dell'indignazione. In un tweet il celebre fotografo si dice vittima di una cattiveria. Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del ponte. Quella tragedia mi indigna, scrive. Poco prima Alessandro Benetton si era dissociato pubblicamente dalle affermazioni di Toscani, mentre la D di Autostrade per Italia Roberto Tomasi aveva definito le sue parole incomprensibili. Nel frattempo, sempre via social, il segretario della Lega Salvini aveva scritto: Toscani, vergognati, neanche pensarle certe cose. Per il capo politico dei 5 Stelle Crimi c'è un limite a tutto, avanti con la revoca. Il sindaco di Genova Bucci e il presidente della regione Toti hanno lanciato l'hashtag A noi interessa. Egle Possetti del Comitato dei Parenti delle Vittime del Ponte. Noi crediamo che il rispetto per delle persone morte e soprattutto in quelle circostanze non possa mai, mai mancare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa, sempre Toscani, ha detto: sono umanamente distrutto, è una follia che si ritenga che non mi interessi la tragedia del crollo. Parliamo di clima. Il mese che si è appena chiuso è stato il gennaio più caldo di sempre a livello globale, battendo il primato del gennaio 2016. Lo rivela il Copernicus Climate Change Service, precisando che in Europa l'incremento è stato di 3,1 gradi sul periodo di riferimento 1981-2010. Rispetto invece a gennaio 2007, secondo anno più caldo in Europa, l'incremento è di 0,2 gradi. Le temperature medie sono state particolarmente elevate in diverse zone dell'Europa nord-orientale, anche oltre 6 gradi in più. Sanremo, dopo gli ascolti record di ieri, seconda puntata del festival questa sera, poi ci collegheremo con la nostra inviata. Per chiudere, lo sport, col recupero della 17ª giornata di Serie A maschile Lazio-Verona, sulla quale ci aggiorna il nostro Giovanni Capuano. Caro Giovanni. Eccomi Roberta, buonasera. Lazio-Verona che sono arrivate al 28esimo minuto del primo tempo, il parziale è 0-0 di una partita molto importante, perché questo è il recupero che può dare alla Lazio, in caso di vittoria, al secondo posto in classifica, scavalcando l'Inter e mettendosi in scia a sole due lunghezze dalla Juventus. Partita però fin qui complicata per la squadra di Simone Inzaghi, ci sono state soltanto due occasioni in questi primi 28 minuti e la prima clamorosa l'ha avuta proprio il Verona. Al 17esimo un doppio miracolo di Stracoscia su Pessina, poi sul tapin veloso in fuorigioco, ma è stata davvero una grande parata quella del numero uno della Lazio. Tre minuti più tardi, al 20esimo, è stato Immobile a liberarsi con un tocco di esterno all'interno dell'area di rigore, si è trovato solo davanti al portiere, ma il suo rasoterra un po' fuori equilibrio è stato respinto con il piede da Silvestri. Dunque Lazio che sta trovando qualche difficoltà questa sera all'Olimpico. È una Lazio che gioca con davanti Caicedo e Immobile, che ricordiamo è capocannoniere, fin qui ha realizzato 25 gol nelle prime 21 giornate disputate dalla Lazio, e Lazio che non perde dal 25 settembre ma gioca contro una squadra in piena condizione, che ha pareggiato a San Siro nell'ultimo turno di campionato e che soprattutto è imbattuto da 6 giornate, l'Hellas Verona. Dunque gara che si sta avvicinando alla mezz'ora, che non si sblocca, e non solo per il risultato c'è equilibrio anche tra le due formazioni. 0-0 il parziale, a te la linea. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiornerai in fondo alla trasmissione per sapere qual è l'evolversi di questa partita. Nel frattempo vedo un aggiornamento di pochi istanti fa per quanto riguarda l'aereo che all'aeroporto di Istanbul si è spezzato in tre parti nell'atterraggio. Ci sarebbe purtroppo un morto, si parlava fino a poco fa dei 157 feriti, e ci sarebbe anche appunto una vittima. Ci fermiamo per qualche istante per aggiornare chi si sta muovendo e poi di nuovo qua naturalmente per cominciare a affrontare il cuore di alcuni argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto... E Sanremo che è in corso la seconda serata, questo è uno dei giovani in gara, ieri ce ne sono stati quattro, adesso altri quattro, inizia così le serate passando subito ai giovani concorrenti, poi dopo si passa ai big, quindi queste le prime note che si sentono tra le prime note di questa sera del festival. Noi invece ci sposteremo su ben altre note dolenti, che sono quelle che riguardano il coronavirus. Vi ricordo molto velocemente per i vostri commenti che potete scriverli sulla pagina Facebook di Effetto Note oppure inviarli tramite SMS e WhatsApp al 349-238-6666. I temi principali di oggi, appunto gli sviluppi del coronavirus di cui parleremo tra pochi istanti, la politica italiana di cui mi occuperò a proposito di prescrizione vitalizi, è un dibattito sempre aperto nella maggioranza, con Di Maio che attacca e chiama la piazza il 15 febbraio, il popolo in piazza. Stati Uniti, Trump spacca il congresso americano, Nancy Pelosi, presidente democratica della Camera, straccia il suo discorso, adesso si voterà l'impeachment, probabilmente non si farà, sarà un nulla di fatto. Turchia, Istanbul, questo aereo in atterraggio che è uscito di pista si è spezzato, sono 157 i feriti ed è purtroppo adesso notizia di un morto. Ponte Morandi, la bufera sul fotografo Oliviero Toscani per una frase, i familiari delle vittime lo attaccano, lui dice sono distrutto, è una follia che non mi interessi la tragedia del crollo. Clima, il mese che si è appena concluso, quello di gennaio, è stato il gennaio più caldo di sempre. Poi Sanremo con record di ascolti ieri, vedremo questa sera. Per il calcio è in campo la partita Lazio-Verona per il recupero di Serie A maschile. E adesso passiamo al primo tema. I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, sono attualmente ricoverati nella terapia intensiva del nostro istituto. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie, i parametri emodinamici sono stabili, prosegue il supporto respiratorio e il monitoraggio continuo dei parametri clinici e di laboratorio. La prognosi resta riservata. Questo è il bollettino letto oggi da una delle ricercatrici dell'ospedale Spallanzani di Roma relativo ai pazienti che lì si trovano ricoverati, quindi la coppia di cinesi colpita da coronavirus più altre persone, altri casi da verificare. I morti attualmente in totale sono 500 e una delle notizie maggiormente sotto i riflettori oggi è stato questo annuncio di un team di ricercatori cinesi guidato dalla scienziata Li Lanjuan che parla di un'importante scoperta, cioè si tratterebbe dei risultati positivi emersi da due farmaci, l'Abidol e il Darunavir, che possono, secondo questo team, effettivamente inibire il virus nelle cellule in vitro. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiarisce, dice, non ci sono terapie efficaci conosciute, aggiungendo che nelle ultime 24 ore abbiamo avuto, dice l'OMS, il numero più alto di casi in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Intanto i medici del Wuhan Children Hospital, quindi l'ospedale dei bambini di Wuhan, che è il centro dell'epidemia, hanno riferito che le donne in gravidanza positive al coronavirus potrebbero trasmetterlo al loro bambino durante la gestazione. Poi è successa un'altra cosa particolare a Pechino, notizia della serata. Pechino ha messo al bando le cene e gli eventi di gruppo a causa del coronavirus, perché dopo il contagio c'è stato un contagio in ben due quartieri di Wuhan per un banchetto a cui hanno partecipato migliaia di persone, quindi misure sempre più stringenti. In ogni caso, che al momento non vi siano farmaci effettivamente efficaci, lo sottolinea anche l'ospedale Sacco di Milano, che è una delle eccellenze sulle malattie infettive, e per questo coinvolgo immediatamente il professor Giuliano Rizzardini, che è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Professore, buonasera. Buonasera. Quindi la cura, nonostante l'annuncio del team cinese, pare ancora piuttosto lontana? Ma è un po' stato frainteso, probabilmente. Hanno annunciato, a quanto si è riuscito a capire, l'efficacia di due farmaci, però un'efficacia in vitro. Passare da un'efficacia in vitro in cui tu scegli tutta una serie di farmaci e in laboratorio li metti a contatto col virus, eventualmente ne verifichi che non c'è più replicazione del virus, a passare all'utilizzo clinico ne passa. È quello che ha sottolineato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ad oggi farmaci che hanno fatto tutto l'iter di sperimentazione clinica precisa non ce ne sono, e peraltro, voglio dire, passare da un'efficacia in vitro a un'efficacia clinica confermata, ci sono tutta una serie di fasi da rispettare che impiegano anni, per cui è possibile che da un giorno all'altro si dimostri efficacia di un farmaco. Peraltro uno di questi è un farmaco che noi stiamo già utilizzando per quanto riguarda il trattamento dell'infezione HIV, il Darunavir, che funziona bene per quello. Non è così scontato che possa funzionare su altri tipi di virus che hanno meccanismi di replicazione diversa. Vedevo anche che si parlava di un medicinale che serve, per esempio, per, ecco, la clorochina, che si usa contro la malaria. Malaria. Ma le ripeto, il discorso è che quando tu hai qualcosa di microbo nuovo, tu sperimenti quello che è in vitro, che hai già in casa, prendi una biblioteca con tutta una serie di farmaci, li fai correre e vedi quello che potenzialmente potrebbe avere efficacia. Per cui sicuramente, essendo una funzione economica, devi vedere quello che è già dimostrato efficace e fai gli esperimenti. Poi una cosa che abbiamo imparato, soprattutto che la combinazione di farmaci spesso è più efficace che un singolo farmaco, perché soprattutto se hai dei farmaci che impediscono i punti di diversi della replicazione del virus, e quindi metti a punto delle terapie, ma ripeto, ci vogliono anni, non è che da un giorno all'altro tu riesci a trovare già e passi avanti su questa nuova malattia, l'identificazione del virus, la possibilità di avere i test di ricerca sono stati estremamente rapidi rispetto ad altre situazioni. Quindi i messaggi positivi ci sono. Adesso sembra un po' esagerato dire, chiaramente probabilmente questa scienziata ha spinto il suo gruppo a valutare i farmaci potenzialmente efficaci e ho visto questa cosa, ma ripeto, fra frenare nel passo di tempo, ha fatto bene l'OMS a frenare questa comunicazione un po' fasulla. Ecco. Tra l'altro l'OMS ha detto che servirebbero 675 milioni di dollari per affrontare la crisi appunto dovuta all'epidemia del coronavirus. Di questi, dice l'OMS, 60 milioni serviranno per le operazioni dell'OMS, il resto per i paesi che sono particolarmente a rischio. Dice, sono molti soldi, ma è molto meno di quanto dovremmo pagare se non investiamo ora. Intanto la fondazione di Bill Gates... Sai che in questo momento c'è l'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sta lavorando a Ginevra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lavora con due organi, uno è l'assemblea che si trova una volta all'anno, l'assemblea vengono preparate delle risoluzioni. Professore, la sentiamo un po' male, lei ha per caso l'auricolare o qualcosa del genere? No. Il telefono normale sa che ha avuto qualche virus anche questo. Il suo telefono potrebbe avere qualche virus, mi raccomando stia attento. E senta, però, allora, Borrelli oggi, il commissario straordinario per l'emergenza per il coronavirus, ha detto che, insomma, in Italia, lo si è ripetuto più volte anche da parte del Ministro della Salute e Speranza, ci sono misure molto stringenti per la prevenzione, siamo in primo piano sin da subito, l'aveva ricordato e riconosciuto anche l'OMS, e oggi ha detto ci sono molti varie verifiche in tutti gli aeroporti, nei porti, solo nello scalo di Fiumicino oltre 24.000 sono i passeggeri controllati in 24 ore. La buona notizia è che dai controlli negli scali non è emersa finora alcuna situazione sospetta. Sentiamo direttamente Borrelli. Abbiamo avviato il controllo in tutti gli aeroporti con gli strumenti a disposizione. Per i porti il metodo sarà lo stesso, è stata estesa la pratica della libera pratica sanitaria. A noi non ci sono stati segnalati casi sospetti. Però questo non esclude, professor Rizzardini, che naturalmente anche in Italia poi qualcosa possa succedere, no? La mia teorica, siamo in un mondo globalizzato, per cui è possibile che un caso arrivi, sono arrivati questi due a Roma, però devo dire che sia il Ministero sia la Regione si sono mosse bene, come adesso non ho sentito completamente l'intervista di Borrelli, ma tutte le procedure, tutti i rispettivi regolamenti internazionali che sono sui diritti dell'OMS sono state fatte, abbiamo la capacità di identificare abbastanza rapidamente eventuali casi, come appunto è successo a Roma, e quindi eventualmente mettere in isolamento pazienti, impedire che appunto l'infezione si diffonda. Professore, per l'Italia si stia comportando estremamente bene. Il suo telefono va e viene, ma comunque dice un ascoltatore, sa la solita diciamo diffidenza, che per carità in certi casi la si può anche capire, qualcuno che dice Walter, ma non è che magari la cura già ce l'hanno pronta da qualche parte prima che scoppiasse tutto quello che è successo, per in qualche modo speculare evidentemente, no? Questo è il sospetto di Walter. Ma no, queste sono le cose che si dicono, quelle dietrologie ci sono sempre, nuovi virus emergeranno sempre, potranno sempre emergere, quindi bisognerà combattere, ripeto. Le ultime esperienze, la SARS, l'infezione respiratoria nel Medio Oriente, questa nuova infezione ci hanno permesso di identificare rapidamente il virus, di mettere a punto i test diagnostici ed eventualmente di porre le misure che sono necessarie. È chiaro, siamo un mondo globalizzato, passare da un estremo all'altro del mondo ci si impiegano 36 ore. A questo proposito, professore, del mondo globalizzato, il Financial Times dice di aver sentito una dichiarazione di un funzionario del governo americano dire che praticamente l'Africa potrebbe rivelarsi il tallone d'Achille in tutta questa globalizzazione. Anche perché c'è insomma, un via vai, no? Anche di milioni di cinesi. Insomma, l'Africa sappiamo che non è molto ben attrezzata dal punto di vista sanitario. Il problema sono i sistemi sanitari deboli che potrebbero colpire la popolazione una volta che venisse importato. Per cui sono quelli che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono più protetti. Questo sicuramente può essere un problema, ma è un problema che potrebbe essere dato questa malattia, ma può essere legato moltissimo a malattie. Sono tornato ieri dall'Uganda e dall'ospedale in cui sono stato c'è ancora la malnutrizione, ci sono ancora casi di essere conclamato che non vediamo. abbiamo in Uganda. In Uganda, per cui è chiaro che la parte più debole del mondo da qualsiasi malattia soffre sicuramente più, perché non hanno sistemi sanitari organizzati. Noi possiamo organizzarci, abbiamo ospedali di riferimento, abbiamo professioni di professionisti, quindi più deboli. Molto spesso questi ospedali non ci sono, sono zone rurali. Professor Izzardini, la sentiamo sempre peggio, però le chiedo questa cosa. So che c'è una ricerca a questo punto anche per un nome proprio del coronavirus, perché è un nome un po' generico, e poi anche per evitare discriminazioni, soprattutto a partire dall'assenza di riferimenti geografici, no? Perché spesso si dice coronavirus cinese. Lei ha in mente qualche nome o sa che circola qualche nome? No, non ne ho sentiti e non sono neanche così fantasioso da inventarmene uno da proporlo. Non ci credo, secondo me se lei ci pensa, ma insomma. E poi chiudo con questa notizia, che tanto per sorriderci un po' almeno, a proposito dei maratoneti cinesi, donne e uomini, stanno aumentando sempre più le cosiddette maratone domestiche in Cina, dove molti atleti e maratoneti compresi non possono uscire di casa, e quindi a causa dell'epidemia cosa fanno? Molti corrono, trovano delle soluzioni alternative. Per esempio Pan Sanchu, maratoneta di Hangzhou, ha postato sui social il suo record di 5 ore stabilito correndo in cerchio su un percorso di soli 8 metri. Ha fatto 6.450 volte attorno ai due letti della sua casa. Immediata la risposta di un atleta di Xi'an, Cheng Dadu, che ha coperto 100 km nel suo soggiorno in 8 ore e 6 minuti. Vede come si attrezzano. Comunque sono resistenti anche da questo punto di vista e creativi, bisogna dire. Grazie professor Giuliano Rizzardini dell'ospedale Sacco di Milano, grazie molto e buon lavoro. Buonasera. Proseguiamo adesso, naturalmente tra poco cambiamo argomento, anche se vedo diversi vostri messaggi a questo proposito. Qualcun altro invece torna su Toscani, che dice: una persona in là con gli anni, purtroppo la notorietà che ha pure come opinionista, gli fa male alla testa, secondo Igor. Può darsi, qualche volta capiti, si è comunque molto scusato, e però bisogna sempre collegare il cervello alla bocca quando si parla, perché spesso si può essere anche equivocati, soprattutto su argomenti molto delicati. Quindi così come è successo, questo in modo grave, ma come è successo per esempio a Amadeus prima di Sanremo, con le varie polemiche, l'importante, insomma, quando si trattano temi importanti, delicati, è ragionare con buon senso e misurare le parole. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, in questa sfida nel raccontarvi a fine giornata quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti con gli ospiti. Mi scuso con le ascoltatrici e gli ascoltatori che dicono non si capiva molto bene l'audio del professore dell'ospedale Sacco di Milano, però io più che dire, insomma, vediamo come si può fare, riprovi parlare, non si sente bene, probabilmente è un problema di linee, e su questo devo dire che sono abbastanza impotente in questo momento quando sono in diretta. Vedremo un po' che cosa si può migliorare, se dipende dai telefoni a volte degli ospiti oppure dalle linee telefoniche in generale. Comunque adesso cambiamo argomento e tra pochissimo, e direi che qualcuno, Maurizio, commenta l'idea alternativa che hanno avuto certi maratoneti cinesi di percorrere chilometri e chilometri, magari intorno ai letti di casa o al tavolo della cucina. Dice: quello dei maratoneti casalinghi mi sembra il giusto ponte per passare al frufru di Sanremo, dice un ascoltatore. La vita è fatta di tante cose, di dramma, di grandi questioni globali, geopolitiche, di questioni filosofiche e anche di cose più leggere, altrimenti qui ci spariamo, eh? Quindi intanto anche Sanremo ci sta. Ma adesso passiamo alla politica. Sapevamo e sappiamo che il sistema avrebbe provato e proverà in tutti i modi a cancellare le leggi che abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo. Ma quando è così c'è una sola risposta, e quella risposta è il popolo italiano. L'avete sentito anche all'inizio, Di Maio che accusa anche gli alleati di governo di voler boicottare le leggi che sono soprattutto appunto cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che sono state approvate e che quindi il Movimento 5 Stelle difende strenuamente, e allora chiama il popolo in piazza per il prossimo 15 febbraio. Intanto saluto la commentatrice politica del Sole 24 Ore, Emilia Patta. Cara Emilia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi Di Maio che attacca su questi temi, in particolare sul, diciamo, che il nodo particolarmente teso di questi giorni all'interno della maggioranza è il tema della prescrizione, poi ci sono i vitalizi. Allora farei sentire che cosa dice, poi ritorniamo Emilia su questa cosa di Maio, anzi se vogliamo commentarlo subito, no? Lui che da ormai dimessosi capo politico del Movimento 5 Stelle, però torna a parlare dopo qualche giorno di silenzio ed è lui che arringa le folle, diciamo, mentre il capo politico attuale, reggente perlomeno, sarebbe Vito Crimi. Come vedi questa, sì, questa iniziativa? Questa è la dimostrazione di una cosa che si era già capita, ossia che Di Maio è ancora in partita, insomma, guarda gli stati generali di primavera, ci dovrebbero essere dopo il referendum sul taglio dei parlamentari ad aprile, e probabilmente tenterà di riprendersi il partito in prima persona o comunque far passare la sua linea politica, che è quella della battaglia identitaria attorno a alcuni temi e soprattutto dell'autonomia da destra e da sinistra. Insomma, questo dimostra che Di Maio è ancora in campo e si fa portavoce, diciamo così, degli iscritti, della base, no? Su questi temi identitari che sono la prescrizione, i vitalizi, che ora la Presidente del Senato Casellati vorrebbe cambiare per chi già percepiva i vitalizi pieni, ha fatto ricorso, no? Oppure anche la difesa del reddito di cittadinanza, perché c'è paura che si voglia cambiare, insomma tutte battaglie identitarie, per non parlare poi della revoca della concessione a Benetton, no? Che Di Maio ne ha fatta anche questa una bandiera. Sono tutti temi molto identitari che però rischiano di paralizzare il governo. Creare tensione nella maggioranza. Emilia, sentiamo allora, visto che hai citato anche appunto gli altri temi cari al Movimento 5 Stelle, sentiamo ancora Di Maio a proposito, dice, degli attacchi nei confronti delle leggi volute dal Movimento 5 Stelle. Questo è un momento del paese in cui stiamo vedendo un comportamento da parte delle forze politiche che è veramente indescrivibile. Abbiamo tagliato i vitalizi e loro se li vogliono riprendere. Abbiamo fatto la legge sulla prescrizione, che è legge dello Stato, e adesso la si sta rimettendo in discussione per provare a cancellarla. Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e c'è chi sta lanciando il referendum sul reddito di cittadinanza per prendersi quei soldi e metterli chissà dove, in quali privilegi da cui li abbiamo tagliati. Non si può governare un paese o stare all'opposizione in un paese pensando a come abolire le leggi del Movimento 5 Stelle. Bisognerebbe pensare al futuro, a quali altre leggi fare. E invece io qui vedo che non si dà respiro neanche di un anno, di sei mesi ad una legge approvata per poi cambiarla di nuovo. Emilia, secondo te ha tutti i torti Di Maio? Effettivamente c'è questa, insomma, questo infierire nei confronti di leggi care al Movimento 5 Stelle, oppure è semplicemente, diciamo, segnale proprio di un malessere all'interno della maggioranza di governo, di chi tira dalle parti? Chiaramente è un segnale di malessere, perché il PD e anche Renzi, che si esiste dal PD, ma la cultura politica su questi temi è la stessa, è contrario. Insomma, quando è stata approvata la riforma a buona fede della prescrizione, che ricordiamo sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio sine die, no? Quindi con il rischio che un imputato rimanga tale a vita. Levano la scadenza al processo. L'ha votata a torto collo Salvini, che adesso già dice che va cambiata, ma il PD votò contro. Sui temi economici il Movimento 5 Stelle è isolato in Parlamento, come si vide la scorsa estate nel voto sulla TAV, no? Cioè, siamo al paradosso che su alcuni temi il PD e Italia Viva la pensano allo stesso modo di tutto il centrodestra, insomma, quindi anche sui temi della giustizia. Quindi Di Maio ha la sua ragione a dire che c'è un accerchiamento contro le leggi che loro hanno provato a varare, però è anche vero che non hanno pur essendo ancora il primo gruppo parlamentare, non hanno la maggioranza in Parlamento, quindi a un certo punto non è che si può comandare a colpi, no, possono comandare loro, insomma poi c'è il Parlamento che è sovrano. E c'è un problema più serio politico, che il Movimento 5 Stelle sta perdendo evidentemente consensi nel Paese a livello elettorale, nei sondaggi è intorno al 14%, quindi ha perso quasi 20 punti, la maggior parte dei quali è andati a destra, ora stanno andando anche a sinistra, e le ultime regionali hanno un po' certificato un movimento che quasi non c'è più a livello locale. Emilia, Berlusconi quindi per esempio. Loro hanno tutto il bisogno di rafforzare le loro ragioni identitarie per tentare di risalire, insomma, però non si può fare a dispetto dei santi, ecco, poi c'è il Parlamento che vota, ci si è in un governo di coalizione, bisognerebbe tentare di trovare un compromesso. Berlusconi oggi ha detto, il leader di Forza Italia, i 5 Stelle sono in liquefazione, divisi in due, ormai si salvi chi può. È un processo irreversibile, dice Berlusconi, dopo le regionali molti di questi parlamentari ci stanno cercando e avvicinano i nostri parlamentari per informarsi e avere garanzie sulla durata della legislatura. Qualcuno ha chiesto di vedermi, ma io non l'ho fatto. Sarà vero, Emilia? Adesso... Ma sì, qualche preoccupazione c'è, perché è chiaro che la maggioranza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle non sarà comunque rieletta, uno per via del taglio che loro hanno imposto, no, agli alleati all'inizio del governo Conte 2, e due anche perché i consensi elettorali presumibilmente non saranno quelli delle scorse politiche, ricordo erano al 32%, quindi un po' di preoccupazione che rischia di cadere il governo, che il Movimento 5 Stelle si possa scindere, insomma c'è. Alcuni, come sappiamo, parlamentari sono già andati verso la Lega, e probabilmente questi contatti evocati da Berlusconi riguardano più la rassicurazione che se il Movimento 5 Stelle si dovesse scindere dopo gli Stati Generali, facciamo uno scenario anche se vogliamo di fantapolitica, e la parte di Maiana, no, si prende le distanze dal governo, si dice che i senatori di Forza Italia sono pronti a formare questo gruppo di responsabili per sostenere comunque il Conte 2, quindi sì, movimenti in Parlamento ce ne sono. Se non ricordo male, già una trentina i parlamentari 5 Stelle che sono andati nel gruppo via. Quindi il tema c'è. Emilia, sentiamo Bonafede, sempre sul tema della prescrizione, che è caldissimo e sul quale non si riesce a trovare una mediazione tra PD, Movimento 5 Stelle e anche dall'altra parte, soprattutto con Renzi di Italia Viva, che ha deciso di votare il provvedimento invece di Costa, di Forza Italia. Sentiamo Bonafede. Io ritengo che entro 10 giorni il testo debba arrivare al Consiglio dei Ministri, perché veramente non si può più aspettare, non è giusto per i cittadini. Siccome tante volte se n'era parlato, poi si diceva ma lavoriamo ancora su un altro punto, è una legge delega su cui ci troviamo d'accordo praticamente tutti e quindi va portata in Consiglio dei Ministri. E poi invece Marcucci del Partito Democratico, quindi alleato del Movimento 5 Stelle e quindi ovviamente del Ministro della Giustizia Bonafede. Ma io credo che ci sia bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti, è emerso con chiarezza anche dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario che così come stiamo la riforma non va bene, in particolare mi riferisco alla prescrizione. Noi aspettiamo dal governo, dal Presidente Conti ma anche dallo stesso Ministro una iniziativa, c'è un tavolo aperto e quindi siamo fiduciosi che una soluzione si possa trovare, ribadisco, con la buona volontà di tutti. Facendo degli strappi e avendo l'esigenza solo di raggiungere la propria visibilità non si fa un buon servizio per il Paese. Insomma, capiremo nei prossimi giorni se ci sarà questa auspicata mediazione. Grazie Emilia Patta del Sole 24 Ore, buon lavoro. Ciao Emilia. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso parlo agli uomini. Lasciateci essere quello che siamo e quello che vogliamo essere. Madre di 10 figlie o madre di nessuna, casalinghe e in carriera. Siete i nostri complici, nostri compagni. Indignatevi insieme a noi quando qualcuno ci chiede: lei cosa ha fatto per meritare quello che è accaduto? Oh, questo è un passaggio dell'intenso, potente monologo di ieri a Sanremo sulla violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, che Tra l'altro lei conosce molto bene, perché aveva soltanto 5 anni quando sua madre si è suicidata per le infinite violenze che aveva subito, si è data a fuoco. Monologo, dicevo, della giornalista, scrittrice, commentatrice di fama internazionale Ruja Gebral, vera gemma del festival per molti, a partire dal direttore di Rai 1, la vera vincitrice del festival, almeno per quanto riguarda la serata, prima serata di ieri, che ha avuto degli ascolti record, con una media di 10 milioni e 58 mila telespettatori, con il 52,2% di share, la media, pensate, più alta centrata della prima serata dal 2005. Il conduttore, direttore artistico Amadeus, dopo le forti polemiche delle scorse settimane per gli stereotipi sulle donne, per la presenza di un rapper, ha saputo ieri fare, bisogna dire, un passo indietro, sostenuto dal fido amico Fiorello. E ieri, oltre i primi 4 concorrenti per quanto riguarda la sezione giovani, si sono esibiti i primi 12 big, questa sera gli altri 12. Saluto intanto la nostra inviata a Sanremo, Marta Cagnola. Ciao Marta. Ci siamo in diretta dalla sala stampa, come sempre a quest'ora. Allora, ieri tra l'altro Albano e Romina Power hanno portato il loro primo inedito da 25 anni a questa parte. Se non sbaglio c'è stata una standing ovation dell'Aristo, e proprio c'è sempre una nostalgia canaglia, diciamo, a Sanremo, Marta. Beh, è solo iniziata la nostalgia canaglia, perché ieri c'era quella per Albano e Romina. Adesso noi siamo in attesa di rivedere Ricchi e Poveri nella formazione 4. Oggi hanno fatto una conferenza stampa, acclamati, anche perché hanno cantato, sono veramente ancora in forma, in formissima come un tempo. Adesso invece, se sentite della musica, sì, è Fiorello che canta. Alziamo un po', sentiamo. Sta cantando. Sì. Anche se no tanto il no. Allora, lui ha deciso, sì, e quindi Dimogol. Marta, stai cantando anche tu, ti sento vibrare, come mai? Sentiamo se la sentiamo meglio, Marta? Niente, oggi le linee telefoniche, che ci posso fare? Io non sono un'operatrice telefonica, non ho potere di questo tipo. Riproviamo a collegarci con Marta Cagnola. Intanto stava cantando la canzone di Massimo Ranieri, evidentemente, Fiorello, Perdere l'amore, se non sbaglio dalle note che ho sentito. Vediamo se ci ricolleghiamo con la nostra inviata. Marta, ci sei? Ecco, sì, proviamo travolta a dalle note. Perché sì. No, sai cosa c'è? Probabilmente tutto il mondo è qua a Sanremo. Allora la linea telefonica sì, fa un po' fatica a reggere il collegamento, perché dovete sapere che sotto l'Ariston c'è anche il palco esterno, che ieri è stato visto anche in televisione, e quindi ci sono veramente centinaia di persone, quindi immagino che insomma le reti facciano anche un po' più fatica. Marta, tu però di che devi avere la priorità per i nostri collegamenti, giustamente. Senti, ieri Tiziano Ferro, ospite fisso di queste serate che io amo molto, però non è stato all'altezza dal mio punto di vista, Marta, ma un po' delusa. Non ti è piaciuto? No, a me allora, almeno tu nell'universo, insomma, l'interpretazione, non ho provato la scelta delle canzoni per una ragione molto semplice, perché nel blu dipinto di blu e almeno sull'universo sono state troppo cantate. Secondo me poteva scegliere qualcosa di più inedito, poteva scegliere nella storia del festival così anche qualcosa che ci potesse stupire. Mi ha fatto tenerezza il suo commuoversi quello senza dubbio, pubblico. Si sente la sua empatia. Sì, ieri sì, mi è piaciuto Achille Lauro e anche Elodie, non male Irene Grande, anche se l'ho trovata troppo Vasco Rossi, cioè proprio Vasco Rossi le ha ritagliato un clone da sé a lei. Stasera invece che cosa c'è di buono, Marta? Allora, si inizierà, ancora nessun big ha cantato, si inizia con Piero Pelù che fa praticamente il rocker, ma che dedica una canzone ai suoi nipotini, perché Piero Pelù è nonno. Siamo curiosi di vedere come si muoverà Elettra Lamborghini. C'è Levante, che piace moltissimo. Io vi dico che secondo me piacerà molto Francesco Gabbani, perché Francesco Gabbani secondo me merita. Rancore, ha un pezzo molto interessante, e poi vabbè, in realtà c'è anche tantissima curiosità per Junior Kelly, che canterà Per Decimo, così. Dopo tutte le polemiche finalmente sentiamo la canzone, ecco, a proposito della canzone che istigava il femminicidio, sentiremo un po' che... Senti Marta, invece mi pare che ci sia, arrivi Djokovic, è possibile, campione del tennis, per chiudere tra i super ospiti? Allora in realtà oggi Fiorello ha raccontato che è pronto per una partita con Sinner, con il nuovo campione italiano che di recente è arrivato alla ribalta. Ha fatto sentire anche un messaggio vocale che gli ha lasciato questo ragazzo, che lo sfida a tennis, e siccome sappiamo Fiorello è appassionatissimo di tennis, ha detto: no, io non posso venire giovedì, mi pare, perché io devo andare a giocare a tennis, quindi è la mia priorità. Ovviamente stava scherzando. Grazie. Però... Marta, dai solo un voto, poi ci lasciamo sulla giacca di bronzo di Amadeus. Amadeus stile cioccolatino non è proprio il mio look preferito. Va bene. Buon divertimento, a domani. Ciao Marta Cagnola, presto, da Sanremo. Ciao Marta. Oh, invece Giovanni Capuano ci parla di divise calcistiche, perché sta seguendo sempre la partita Lazio-Verona. Ne è vero, Giovanni? Eccomi Roberta, sì, settimo minuto del secondo tempo all'Olimpico, parziale ancora di 0-0, dunque non si rompe l'equilibrio che vi avevamo già raccontato precedentemente, però la Lazio sta cercando di stringere i tempi per trovare il gol che la porterebbe in vantaggio e che la porterebbe al secondo posto. Una Lazio che dal 34esimo al 45esimo ha avuto quattro occasioni nitide per segnare: al 34esimo con un sinistro di Caicedo, a fil di palo; al 35esimo con Lucas Leiva, palla deviata in corner; al 37esimo è stato straordinario il portiere del Verona Silvestri su un destro a giro dal limite dell'area di rigore di Luis Alberto, e poi soprattutto al 45esimo con il palo pieno colpito da Luis Alberto con un sinistro dal limite, e con il portiere del Verona Silvestri battuto in quell'occasione. Non avrebbe potuto fare nulla se il pallone fosse stato nello specchio della porta. Vantaggio che non è arrivato in questo secondo tempo. La Lazio ha provato ancora ad accelerare, a stringere i tempi nei primi 7 minuti. Verona però che è sempre pericolosissimo e che non sta rinunciando a giocare, e sta così testimoniando la bontà della sua classifica, che lo vede subito a ridosso della zona Europa League. Settimo minuto che si è appena concluso nella ripresa, 0-0 il parziale all'Olimpico tra Lazio e Verona. A te la linea. Grazie Giovanni Capuano. Qui invece ridò la linea alla regia, perché poi ci sentiamo per gli aggiornamenti alle 22. Torno a Ratta come la Folgore.